Rieccoci, rieccoci. Scusate, prima ho avuto una breve visita nella mia stanza mentre stavo registrando e non era la visita di un alieno, assolutamente, che mi è piombato però in modo molto silente, devo dire, in questa stanza, alle mie spalle, mettendomi un attimino di paura, forse l'avrete capito, ma mi dispiaceva interrompere un attimo il discorso che avevo preso. Ma mi sono vista arrivare degli ospiti nella mia stanza e allora ho dovuto annaspare un attimo, come si suol dire, prima di darvi la notizia che sto per leggervi. Ad ogni modo, andiamo avanti. Andiamo a ritroso nel tempo al 27 agosto, sempre di quest'anno, quindi del 2011. Quando si correva l'anno 2011 era il giorno 27 agosto. È una dodicenne, quindi i sali sono L e C, in vacanza a Decollatura nel Catanzarese, quindi qua siamo nel sud della Calabria. E insieme ai genitori scattava una foto al panorama di Adami nei pressi del passaggio a livello, intorno alle 6:30 del mattino. Sull'immagine è rimasto impresso un disco, foto grande in alto, dice il giornale. Io in questo momento lo vedo. Non è proprio di forma circolare anche questo, eh? Sembra che si siano evoluti con le navicelle spaziali, da che era Star Trek. Vi ricordate Star Trek? La navicella spaziale circolare. Gli UFO si sono evoluti, così come noi siamo passati dalle macchine, quali potevano essere la 500 di un tempo, non so se ve la ricordate, ma era fantastica, ancora ne girano, sono passate a macchine d'epoca, io la trovo veramente sensazionale quella macchina. Adesso abbiamo una 500 molto più spaziosa, molto più rifinita, molto più garbata, molto più efficiente, c'è l'aria condizionata e c'è il motore diverso e tutto quanto. Così hanno fatto anche gli extraterrestri, la loro tecnologia è andata avanti. Sperando che questa tecnologia non sia andata avanti per lesionare i nostri interessi. Comunque, questa bambina, ragazzina, diciamo, ha fotografato questo panorama ed è venuto nell'insieme anche questo oggetto non identificato. Sull'immagine è rimasto impresso un disco, non visibile ad occhio nudo, però. Il CUN ha aperto un fascicolo sull'avvistamento dell'adolescente e l'istruttoria è ancora in corso. Secondo gli esperti del centro ufologico, l'oggetto appare di colore scuro, non potendo riflettere la luce, in quanto il sole si trova di fronte all'obiettivo di ripresa, e con leggero alone del medesimo colore. La distanza effettiva è di circa 1,5 km con altezza di quota di 600 metri circa. La dimensione effettiva si aggira intorno ai 15-20 metri con una sezione di 7 metri. Questo è l'ultimo avvistamento di cui ho traccia qui e sarebbe il più recente. E le più lontano cronologicamente, perché il più recente che noi abbiamo detto risale all'8 novembre questo, quindi a pochi giorni fa. E, da quel che sembra stiano facendo un giro un po' in risalita. Una volta tanto si parte dal sud Italia a fare qualcosa. Peccato che siano proprio gli alieni, ma chi lo sa che magari gli alieni siano venuti a fare quella che è la valorizzazione del territorio del sud Italia, appunto, partendo magari dalla Sicilia, risalendo dal Catanzarese fino a quelle che sono il litorale, fino a quello che è il litorale tirrenico, per risalire al nord della Calabria e man mano risalirà. Anche se diversi anni fa io avevo sentito parlare di un avvistamento UFO nei pressi di Livorno. Che non sia la stessa tornata di alieni, non lo so, può darsi che non siano gli stessi alieni appunto a circuire appunto quello che è il nostro territorio, quello che è il territorio italiano in particolare, che arrivino a tornate, magari si danno il turno, non lo possiamo sapere. Comunque, cari alieni, se voi venite qui a cercare fortuna, soprattutto nel sud Italia, non penso che ne troverete tanta. Speriamo soltanto che anche voi non vogliate ridurci in schiavitù come il sistema culturale, il sistema sociale, lavorativo ha fatto con il sud dell'Italia negli ultimi anni. Comunque, io vorrei sapere se qualcuno di voi ha dei nuovi avvistamenti da darci. Quando avete queste notizie di questo genere, io vi pregherei di contattare subito Web Radio Luzzi attraverso radioluzzi@hotmail.it, di raccontarcelo, io lo leggerò. Ho lanciato più volte la proposta di raccogliere quelle che sono le vostre esperienze, che possono essere ufologiche, extrasensoriali, di déjà vu, di telepatia, di metempsicosi, non lo so, qualsiasi cosa vi sembra paranormale, vi sembra degno di essere raccontato a questa radio, voi fatemelo sapere, mandate un'email, i nostri amici del clan la raccoglieranno, me la gireranno, io la tratterò. quindi vi rinnovo l'invito.